Noi anche ieri siamo usciti proprio con un comunicato che andava proprio in questo senso. Noi ci siamo visti la nostra rappresentanza sindacale unitaria, che è stata eletta al comune di Casalecchio, che praticamente è stata segnalata da parte dell'amministrazione comunale proprio per i fatti che abbiamo visto nel video. Questo secondo noi inizia a essere veramente intollerabile, anche perché ci sembra una cosa che non stanno in cielo né in terra, ecco, perché secondo noi questa è tutta una questione tutta politica. Non vediamo nessun riscontro applicativo delle norme, dei regolamenti di diritti e doveri pubblici dei dipendenti, che non si prestano quindi a nessun tipo di provvedimento disciplinare. Ma è tutta un'azione politica portata avanti dalla destra e purtroppo anche da alcuni finti zelanti amministratori, che non si capisce benissimo se tutelano gli interessi che alla fine invece sono della Costituzione o gli interessi anche dei lavoratori. Giusi il 20 maggio, come dire, protestava assolutamente pacificamente, anche se in modo determinato, contro il fatto che la polizia stesse proteggendo delle forze neofasciste cui era stata concessa Piazza Galvani. Esatto, quindi non c'è nessun tipo di né di violenza né di atteggiamento contro lo Stato, che invece è stato magari interpretato da parte di, ripeto, di questi zelanti burocrati, perché Giusi alla fine era lì per difendere la Costituzione. La Costituzione dice che un partito fascista non ha, perché è un crimine, il fascismo ricordiamo che è un crimine, quindi non ha nessun tipo di parlamentarismo, cioè non dovrebbe avere neanche la possibilità di parlare in una piazza pubblica. Ricordiamo inoltre che Fiore è immischiato nella strage di Bologna e questa è una ferita per tutta la città di Bologna, anche perché abbiamo visto che l'amministrazione comunale non ha dato il permesso in un primo momento, ma invece ci sono forze amministrative che alla fine permettono a neofascisti di parlare in piazza. Questo per Giusi giustamente non è, ma anche come cittadina non è una cosa che deve essere perpetrata. Lei ha dimostrato le sue tra virgolette perplessità, non ha offeso nessuno e ha fatto delle domande che invece hanno ricevuto come risposta un atterramento che gli ha procurato oltretutto anche delle ferite. E di tutto contro ci troviamo una lavoratrice, una cittadina che protesta contro un presidio neofascista protetto dalla polizia con delle ferite, che alla fine va oltretutto a essere colpita anche sul posto di lavoro. È un clima che secondo noi non va tanto bene, perché hanno aspettato oltretutto le elezioni per poter venirne fuori. È un clima che sinceramente è preoccupante. Ricordiamo che Giusi era ovviamente fuori dal suo orario di lavoro. E che cosa rischia nel concreto? Nel concreto ancora non abbiamo, perché non è arrivata ancora la segnalazione, però in concreto abbiamo visto anche altre volte, come è stato anche riscontrato nella protesta della maestra a Torino, che aveva offeso oltretutto le forze dell'ordine, e si rischia anche il licenziamento. Quindi o dal provvedimento disciplinare, con un richiamo o una sanzione, o addirittura si può arrivare anche al licenziamento se questi signori agiscono indisturbati. Poi logicamente noi metteremo tutti i nostri avvocati, tutto quello che possiamo fare per difendere sia la lavoratrice che la cittadina nel rispetto delle sue libertà, anche di manifestare il dissenso nei confronti di un crimine perpetrato, perché lo ricordo, il fascismo è un crimine ed è sancito anche da leggi come la legge Mancino e dalla Costituzione. State pensando anche a mobilitazioni, iniziative, diciamo, probabile. Probabile, se la situazione non si risolve per vie diciamo amministrative o vengono ritirate queste cose, sì, molto probabilmente ci troviamo a dover tutelare sia la nostra iscritta, sia la nostra rappresentante, che tutelare anche una pratica che ancora in questo paese, fino a che si dichiara democratico, deve essere permessa. Non c'è stato nessun tipo di violenza da parte di Giusi, ed è per questo che noi siamo usciti subito con grande solidarietà, perché lei ha fatto tutto quello che noi eravamo lì anche a fare, perché, ripeto, se no allora dovrebbero denunciarci tutti e il presidio non essere permesso. Eravamo migliaia quel giorno, quindi non c'è nessunissimo tipo di violenza da parte della dimostrante, della nostra rappresentante, nel voler esprimere le sue opinioni in difesa della Costituzione.